Come si fa? Carbone, un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo. Guarda come se la canta. Tutta, me la canterei tutta. Ti è piaciuto questo inizio di settimana con un po' di romanticismo? Prima che l'acqua ci porti via tutti? Mi piace molto, Deborah. Apprezzo. Allora, certo che cantate da Battisti fanno tutt'altro effetto, ma le due domande sono molto semplici. Che anno è? Che giorno è? Il giorno è un 17 di novembre, per fortuna non è venerdì, ed è oggi che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ci dà lo spunto per la puntata di oggi e per la pagina di denari. Cambierà infatti il modo di calcolare l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, un dato molto importante per una famiglia. È un documento, chiamiamolo così, che viene utilizzato spesso per accedere a servizi, fasce di reddito, agevolazioni e prestazioni sociali. 800 24 00 24, raccontateci se vi ricordate quando è l'ultima volta che l'avete richiesto e utilizzato e perché. L'altra domanda, che anno è, ci aiuta a fissare un promemoria, perché pubblicando il decreto oggi il tempo necessario alla sua attivazione è esattamente quello che permette alle novità di entrare in vigore con l'inizio del prossimo anno. Quindi ricordiamoci che finché siamo nel 2014 il metodo di calcolo resta quello precedente. Tra poco vi spieghiamo tutte le novità, rispondiamo alle vostre domande, facciamo un po' di calcoli insieme. E anche nella parte di cuore faremo un po' di calcoli. Sono infatti 90.000, pensate, gli italiani che in questi giorni stanno facendo i conti col naso chiuso. Non si tratta ancora di influenza, arriverà a dicembre, metterà secondo le stime a letto 4 milioni di italiani. Adesso ci siamo beccati la simile influenza. Oggi con il nostro esperto ci prenderemo cura del nostro naso, di questa adorabile proboscitina che, oltre a tapparsi, può prudere, gocciolare, starnutire. Se avete uno o più di questi problemi, chiamateci subito al nostro numero verde 800 24 0024. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Allora, manca ancora un mese e mezzo alla fine dell'anno e già pensiamo a tutto quello che succederà dal primo gennaio del 2015. Fra le varie cose, entrerà in vigore, lo dicevamo in apertura, il nuovo ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Tra l'altro, proprio oggi è pubblicato il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale, come annunciato dal Ministero del Lavoro. E proprio il ministro Poletti ha detto che questo strumento, nella sua nuova versione, permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendoci così di contrastare le pratiche elusive ed evasive. Oggi a Cuore Denari l'ABC del nuovo ISEE: come si calcola, cosa serve, quali sono le prestazioni sociali che vengono definite utilizzando questo strumento. Un esempio fra tutte, il bonus mamma, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. 800 24 00 24, raccontateci se siete già pronti a cimentarvi con il calcolo del nuovo ISEE. Ve lo siete fatti calcolare quest'anno? A cosa vi è servito? Per cosa vi è servito presentarlo, per fare la domanda di quale prestazione? Per esempio, l'inserimento nelle fasce per la retta universitaria, per la graduatoria di accesso al nido. Continuate voi con i vostri racconti. Vi ha effettivamente aiutato? Francesca Milano del Sole 24 Ore, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno e grazie anche per essere con noi a Paolo Conti. Ormai il lunedì un appuntamento fisso, quello con il direttore generale del CAF ACLI. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Inizia bene la settimana. Certamente. Con Cuore Denari, può dirlo, no? Non sia timido. Magari lui sarebbe contento di parlare di altri argomenti, invece... chissà, però per adesso si deve accontentare di questo. Allora Francesca, lo dicevamo, tu ne scrivi anche questa mattina sul Sole 24 Ore, l'ISEE si fa in 6 per il debutto e si adegua alle prestazioni, poi decifreremo questo titolo, però andiamo proprio all'appuntamento della giornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, in tempo proprio per diventare operativo il nuovo ISEE a partire da gennaio, dicevamo giusto prima? Sì, dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio, a patto che stasera sulla Gazzetta Ufficiale venga appunto pubblicato il decreto. Ora dobbiamo guardare? In serata, il ministro Poletti l'ha annunciato, non dovrebbero esserci novità, però insomma con la Gazzetta Ufficiale non si può mai dire, quindi insomma, tra stasera e domani comunque il decreto arriva in pubblicazione, certo. E quindi questo vuol dire che ci sono i tempi tecnici per entrare in vigore dal 1 gennaio, quindi dal 2005 cambiano totalmente 15. Le regole, 15 cambiano le regole. Allora sì. Quante persone interessa questo cambiamento? Quanti sono gli italiani che ogni anno fanno uso di questa certificazione e per quali motivi? Esistono delle statistiche? Sì, che ce lo ci dicono? Sono gli ultimi dati, sono quelli del 2012 in realtà, e ci dicono che 6 milioni di dichiarazioni per l'ISEE sono state presentate, vuol dire che 5 milioni e mezzo di famiglie ne hanno presentata una, ne hanno fatto richiesta, ne hanno presentata una per i motivi più diversi, perché l'ISEE può servire per l'asilo nido, per l'università, per le residenze, per l'assistenza per gli anziani, insomma ci sono moltissimi servizi agevolati a cui si può accedere con l'ISEE. Nel tuo articolo, Deborah lo citava, dicevi che l'ISEE si fa in 6, non è che tutte queste novità, questo farsi in 6 sarà sì. Poi alla fine una complicazione? Potrebbe complicare le cose, però qual è il problema? Che la coperta è corta, come si dice di solito, per cui bisogna assolutamente fare dei controlli più mirati e rendere questo strumento più efficace, perché bisogna assicurarsi che le prestazioni agevolate vengano fornite alle famiglie che effettivamente ne hanno bisogno, certo. Quindi era necessario rendere l'ISEE un po' più preciso. L'ISEE serve per pesare la ricchezza delle famiglie, è proprio una bilancia e bisogna tararla bene. Certamente. Quindi non solo l'ISEE si fa in 6, c'è anche accanto a questo anche un altro documento che è la dichiarazione sostitutiva unica, poi vedremo che relazione c'è fra le due cose. Intanto vorrei andare a Conti per chiedergli se ci può spiegare le motivazioni per cui è stato necessario modificare l'ISEE vecchia modalità, diciamo così, e poi quanti contribuenti ogni anno Conti si presentano ai vostri sportelli per farsi rilasciare questo indicatore. L'unico modo per ottenerlo oppure si può fare anche da soli? Tante domande allora, in una. Eccoci qua. No, velocemente. L'ISE era un meccanismo e uno strumento che era in vigore dal 1998 e non aveva subito praticamente manutenzione nel frattempo. Nel frattempo però la società è cambiata, sono cambiate tutta una serie di caratteristiche anche per esempio dei nuclei familiari, per cui sicuramente c'era necessità di un aggiornamento. Tra l'altro sono cambiate anche i sistemi informatici di controllo, ma anche di messa a disposizione di tutta una serie di informazioni ai soggetti, per cui sinceramente erano già 2 anni che ci si lavorava la nuova ISE. Ha avuto un parto abbastanza lungo e travagliato, però sinceramente credo che questo strumento sia assolutamente più adeguato ai tempi attuali. Noi circa 5 milioni di persone fanno ISE. 5 milioni di persone si rivolgono agli sportelli del CAF ACLI appunto per essere aiutati nella compilazione di questo modulo, ma è tanto complicato, peraltro poi parleremo anche dei nuovi dati che il fisco chiede appunto per la sua compilazione. Si può fare anche da solo Conti, secondo lei? E da quest'anno, questa è la prima grande novità, sì, perché l'INPS dovrà mettere a disposizione attraverso il suo sito una procedura che consentirà ai singoli cittadini che lo riterranno opportuno di registrarsi e di inserire direttamente i dati online e di ricevere poi la certificazione direttamente sulla propria posta. Lo deve fare l'INPS, mi scusi, non ho capito? L'INPS. L'INPS è diciamo che tutta la banca dati è detenuta dall'INPS. Certo. L'Agenzia delle Entrate non c'entra niente con l'ISE. Chissà poi lì se servirà ancora il PIN dispositivo, ma immagino di sì, per dover fare perché lì, come lei sa, l'ostacolo, no, che è un po' che mette in difficoltà molte persone, perché questo PIN dispositivo che serve a fare tutte le operazioni con l'INPS lo devi richiedere, metà te lo danno subito, la seconda metà arriva con la posta, poi devi mettere insieme i codici ed è un numero piuttosto lungo. Detto questo, dobbiamo comunque anche adeguarci alle nuove modalità tecnologiche. Andiamo alle novità, allora le sei, come dire, facce del nuovo ISEE, Francesca Milano. Sì, sei tu lo racconti stamattina. Sei tipologie. La prima è quella standard, che viene utilizzata insomma in tutti i casi che non riguardano gli altri cinque casi specifici, che sono quello dell'ISEE corrente. Vuol dire un dato che certifica il cambiamento di reddito di una famiglia. Mm-hmm. Per cui se si perde il lavoro si può richiedere questo ISEE corrente, che aggiorna l'ISEE precedente e quindi tiene conto della perdita del lavoro, quindi dell'abbassamento del reddito, e quindi a questo punto permette di usufruire di altre agevolazioni. Poi c'è l'ISEE università, dedicato a chi chiede prestazioni per il diritto allo studio universitario, c'è l'ISEE per le residenze assistenziali, quindi per gli anziani, c'è l'ISEE per per gli altri servizi assistenziali, e poi c'è l'ISEE per i minori, quindi per esempio per le rette per l'asilo nido. Ogni tipologia viene usata appunto per specifiche prestazioni, perché per ogni tipologia vanno compilati alcune parti del modulo specifiche per questa, diciamo, per rendere più veritiero, più puntuale, certo. sì esattamente, il reddito o il valore che poi viene fuori. Allora, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, anzi, sì. Maria, che in realtà credo abbia combinato anche un messaggio vecchio a quello nuovo. Il tema è che ha fatto appena da poco l'ISE l'8 ottobre, sì, per sua figlia per l'università. Questo scade naturalmente nell'ottobre del prossimo anno, ed era una delle domande che immaginavamo appunto che potessero arrivare. Conti, questo ISE che ha appena fatto questa signora per l'università di sua figlia scade a gennaio, lo deve rifare già ad inizio anno, o comunque scadrà, come dire, naturalmente, allora, l'ottobre dell'anno prossimo, come ci ha detto? Allora, cambieranno un po' le scadenze. Diciamo che tutta l'ISE che viene prodotta fino al 31/12 di quest'anno verrà utilizzata per le prestazioni rispetto alle quali l'erogazione viene fatta nel corso del 2015, ma con i dati 2014. Per tutte le nuove domande, e dunque per tutte le nuove prestazioni che partiranno dal 15, si ritiene probabilmente che ci sarà uno slittamento di 15 giorni, dal 15 di gennaio in avanti invece occorrerà fare la nuova. E quindi, la vecchia la può usare ancora per l'università, però sarà limitata a quello studio. Beh, certo, sarà limitata a quello studio, quindi l'anno prossimo teoricamente questa signora dovrà fare quello specifico per l'università. Esattamente. Assolutamente sì. E allora, tra l'altro, anche lì c'è invece tutta la questione, tutta la partita legata ai redditi che devono essere indicati, no? In questo documento, perché come tu giustamente anche Francesca, poi faccio commentare anche lei i conti, come tu giustamente Francesca dicevi questa mattina sul pezzo del Sole, ma l'hai detto anche in altre circostanze, l'obiettivo è quello di smascherare i finti poveri, quelli che negli anni passati hanno chiesto e ottenuto prestazioni sociali agevolate grazie a qualche trucchetto nella dichiarazione appunto dell'indicatore della situazione economica. Quali sono, sì, questi trucchetti che venivano? Ci sono vari trucchetti. Quello di svuotare il conto corrente, per esempio, a fine anno. Perché cosa succedeva? Fino a quest'anno, fino al 2014, tra le informazioni che bisognava fornire per avere un ISEE c'era il saldo a fine anno del conto corrente. Allora cosa facevano questi furbetti? Svuotavano il conto corrente, si facevano fare l'estratto conto da cui risultava praticamente niente o poco più, e in questo modo potevano usufruire di prestazioni agevolate. Poi dopo il primo gennaio, insomma, dopo aver fatto la pratica, rimettevano tutti i soldi sul conto. Veniva rimpinguato di nuovo. Esatto. Ma pazzesco. Sì, però invece, anche lì, perché il fisco non vuol vedere, ma in realtà le banche dati, certo, che sanno benissimo tutti i flussi finanziari, diciamo, i movimenti del conto, esistono. Che le cose stanno cambiando proprio in questo senso, e l'ISEE nuovo che partirà dal 2015 terrà proprio conto di questo, nel senso che usufruirà della banca dati dell'anagrafe tributaria per avere un sacco di informazioni che sono già contenute, cioè che le banche comunicano già al fisco, per cui sarà più difficile appunto fare qualche trucchetto e ingannare il fisco. Uno di questi modi per rendere più veritiero questo dato è quello di chiedere, oltre al saldo a fine anno, la giacenza media del conto corrente, una cosa di cui parliamo sul Sole 24 Ore in questi giorni. Perché qual è il problema? La giacenza media è un dato molto più veritiero, perché permette di calcolare insomma quello che si ha in media tutto l'anno, però è molto complicato da fare, un calcolo molto difficile, quindi è probabile che molti cittadini, molti italiani si rivolgano al CAF. Difficile in che senso? Io questa mattina, per fare un'operazione personale, ho aperto il mio conto corrente online. Hai fatto subito la giacenza così? No, esiste nella mia home page giacenza media oggi in questo momento. Sì, in realtà secondo, diciamo, le istruzioni date dal Ministero c'è proprio una formula per calcolarla. Bisogna calcolare la giacenza media giornaliera che si prende dagli estratti conto, moltiplicarla per il numero di giorni in cui quel conto è aperto. È una formula proprio, una formula matematica. Ma Conti, voi come aggiusterete questa faccenda ai vostri sportelli? Che tipo di informazioni chiederete ai contribuenti che verranno a chiedervi appunto assistenza per la compilazione del documento? E lì? Allora, speriamo di doverlo chiedere ancora per pochi mesi, perché fortunatamente la norma prevede la possibilità, anche in corso d'anno, nel momento stesso in cui ci saranno i collegamenti tra le singole banche dati e diventeranno operativi, a un certo punto non ci sarà più bisogno di chiedere nulla, cioè saranno i dati che lo Stato ha già a disposizione dei flussi finanziari, e questo consentirà di evitare tribolazioni. La giacenza media, dobbiamo andare a prendere l'estratto conto, fare il totale dei numeri creditori e dividere per 65, però credo che sinceramente non si possa chiedere agli italiani di mettersi a fare un calcolo. No, però magari se lo chiedono alla banca, la banca statisticamente può rilasciare. Ma vede qual è il problema? Che dal 98 in avanti noi abbiamo provato come CAF a far rilasciare un documento univoco alle banche e alle assicurazioni dove si attestasse il solo saldo al 31-12 con anche tutta la posizione titoli e così via. Non ci siamo riusciti. Lo so. Per cui credo sinceramente che a questo punto il salto veramente sarà quando ci sarà la possibilità di non dovere da parte del contribuente indicare più nulla, perché questi dati sono in realtà... Certo, le banche preferiscono non darlo in automatico, ma fanno in modo che il correntista lo vada a chiedere, che si fanno pagare così questo servizio, tanto per non parlare male di nessuno. Male di nessuno, andiamo subito a Prato, ci aspetta Simone che ha chiamato l'800 20 400 24. Benvenuto, buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la mia domanda è un po' articolata. Praticamente le spiego. Noi abbiamo avuto un figlio, sono 4 mesi fa. Noi abbiamo fatto l'ISEE per quanto riguarda gli assegni familiari. Sì. Per riprendere gli assegni. Ora, purtroppo, 2 mesi dopo la nascita siamo venuti a sapere di una malattia genetica del bambino e quindi di una futura invalidità al 100%. Ora, abbiamo fatto la richiesta all'INPS per le visite per il riconoscimento dell'invalidità. Sì. Nel contempo avevamo già fatto l'ISEE, stiamo facendo l'ISEE, però quelli del CAF mi hanno detto: io fermerei tutto finché non arriva la domanda di la conferma di invalidità, certo, che andrebbe ad abbattere l'ISEE e quindi aumentare gli assegni familiari. Allora Simone, aspetti lì, perché Francesca Milano vedo che già annuisce, quindi... Sì, sono d'accordo con quello che gli è stato detto, cioè di aspettare a quel punto di rifare una domanda con tutti i documenti necessari per avere, avere un ISEE maggiore, cioè per avere gli aiuti maggiori. Conti, lei che dice? Supportiamo Simone nelle istruzioni che gli sono state già date? Sì, assolutamente, perché il riconoscimento dell'invalidità del figlio aumenta quel coefficiente che riduce l'ISEE con una E sola nell'ISEE, che è quello che invece si utilizza, per cui di uno 0,5, per cui sicuramente il valore della ISEE calcolata successivamente al riconoscimento del problema darà un valore più basso. Chiaro. E quindi insomma può prendersi ancora qualche settimana di tempo il nostro ascoltatore prima di farne formale richiesta. Andrei a sentire le borse. Sentiamo i mercati. Direi che è il momento giusto. Profetico nonché magnetico, geometrico ed acrobatico. In attesa di saperne di più sull'ISEE, l'indicatore che aiuta a misurare la capacità economica delle famiglie per l'accesso ai servizi pubblici, 800 24 00 24, continuate a intervenire. Nel frattempo vi invitiamo a cimentarvi non con un altro calcolo, ma con un semplice test di autovalutazione della salute e del benessere del naso. Provate a tapparvelo se non ci ha già pensato al raffreddore. Mantenete la posizione per qualche secondo. eccolo lì. E allora provate a pensare come sarebbe la nostra vita senza di lui, che trascuriamo spesso e di cui parliamo solo per lamentarcene. Sarebbe un disastro, perché nei nostri polmoni arriverebbe un'aria troppo fredda, poco umidificata, piena di particelle irritanti, e anche la nostra vita sarebbe più insipida in colore, anche un difficile da ricordare, perché il naso è vita, con il naso respiriamo, ma il naso ha anche emozione, gusto e memoria. Saper annusare è un grande compito che noi tendiamo a sottovalutare, e al contrario ci farebbe un gran bene riscoprire, educare e potenziare. Quindi respirate, annusate, fiutate e chiamate 800 24 00 24. Non sanno più dove aggrapparsi per trovare le colonne sonore del nostro programma. L'assonanza con l'inglese, un po' paradossale. E in molti non staranno trovando molto easy, appunto, molto facile l'argomento di oggi, il calcolo dell'ISEE, che si pronuncia quasi nello stesso modo, ma che significa indicatore della situazione economica equivalente. Tante novità che entreranno a regime dal 1 gennaio del prossimo anno, uno strumento che può renderci più facile, più easy la nostra vita da molti punti di vista, dall'accesso al nido alla fascia di reddito più leggera per la retta universitaria dei nostri figli. Torniamo a parlare appunto di questo certificato, di questo documento che in maniera nuova dovrà essere calcolato dal 1 gennaio del prossimo anno. Nicoletta ha già ricordato il numero verde al quale poter intervenire e che hanno composto i nostri amici. Sì. Allora andiamo prima da Federica. Andiamo da Federica, volentieri. Poi andiamo subito da Marco. Federica, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo chiedere come mai attualmente il calcolo dell'indice ISEE, che io ho dovuto farlo per i figli universitari, penalizza notevolmente, almeno mi sembra così, i risparmi praticamente o gli investimenti, eccetera. Penalizza in che senso, Federica? Nel senso che noi abbiamo entrambi, marito e moglie, un lavoro dipendente, per cui presentiamo il 730 così, con i redditi concreti di quello che abbiamo percepito, sì. Però in realtà abbiamo fatto una scelta di vita nostra per cui preferiamo risparmiare, per cui non abbiamo, diremmo, comperato, andati in ferie oppure fatto fare sport, cioè abbiamo scelto un stile di vita nostro che ci permette di avere dei risparmi. Perché abbiamo scelto così, sì. Però in realtà questo dipende da un mio sacrificio. Dopo, quando io faccio l'ISEE, mi vengono chiesti questi risparmi, questi investimenti, e quindi non si riesce a entrare nelle classi più basse perché abbiamo dei risparmi, però in realtà sono frutto di un nostro sacrificio. Però lei dice, insomma, il fisco non interessa questo suo spirito di sacrificio, e chiaramente calcola invece poi tutto l'ammontare, no, del patrimonio che questa famiglia ha. Paradossalmente, conti, se la famiglia di Federica non avesse risparmiato nulla, avesse il conto a zero, praticamente avrebbe ottenuto invece un'agevolazione fiscale per pagare la retta dell'università. Però che dice lei su questo caso? I risparmi vengono considerati al netto di una franchigia, cioè c'è una somma che non viene del tutto considerata, nella misura del 20% del loro ammontare complessivo, per cui incidono, ma relativamente all'interno del calcolo dell'ISEE complessiva, incidono, ci mancherebbe altro, però non in maniera così preponderante rispetto, per esempio, al reddito annuale percepito dal lavoro dipendente o dal lavoro autonomo, per cui sinceramente non so. Credo che comunque, visto che è un indicatore che deve pesare nella ricchezza, certo, di fronte magari ad una famiglia che non ha molto risparmio, ma che giustamente vuole mandare lo stesso un figlio all'università disponendo di minori risorse, chiaramente quella famiglia viene un po' avvantaggiata. Capiamo però anche un pochino la frustrazione della nostra amica. Dove Marco, andiamo? Dalla provincia di Rovigo. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno a voi. Sento, mia moglie è cassa integrazione da agosto, sì. Non so se è in straordinario o meno, o normale, diciamo. Deve fare l'ISEE, dobbiamo farlo in ogni caso, o basta 7.30? Buongiorno, grazie. Marco, dipende se lei ha un bambino da mettere al nido. No, Marco se... aveva un po' premura, hai visto. Buongiorno, grazie. Okay. Siete pronti o no? Allora, diciamo, spieghiamo un po' questa cosa. Non è che l'ISE è un obbligo che ci prescrive il medico, come per esempio il medico che abbiamo qui in studio. Possiamo anche salutarlo, dai, poverino. Sì, dai, che sa tutto anche dell'ISE. Buongiorno, dottor Franzetti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, dottore, cioè non è che sia proprio un obbligo. Sono che voi prescrivete. Buongiorno, fate l'ISE come prescrizione di oggi con questo bel raffreddore. Assolutamente. Ecco. Infatti non è obbligatorio. Se si vuole usufruire di una prestazione sociale agevolata, bisogna avere questo documento. Quindi non è l'alternativa al 730. Adesso non capisco come sia passato questo messaggio. Marco, c'è ancora? No, Marco, no, l'abbiamo mandato. Aveva premura, te l'ho detto, si sentiva dalla voce. Senti, c'era un messaggio che ti piaceva prima, sì, l'SMS. Però, allora, dai, che lo troviamo. L'ho ritrovato, è Carlo che ci scrive. E te, allora, che si chiama Carlo, sempre. Subito, rizzo le antenne. Allora, a proposito di ISEE, ho sempre rilevato e sofferto una mancanza di uniformità e una certa ingiustizia. Avendo cambiato lavoro e avendo ricevuto la liquidazione, l'indice è salito diversamente da quanto sarebbe avvenuto se non avessi cambiato lavoro. Non mi sembra corretto. Quello allora, che dicevamo prima, esatto, quello di cui parlava anche Conti prima, le giacenze sul conto corrente, insomma le disponibilità economiche pesano in qualche modo, non sono l'unico valore, l'unico indicatore, perché poi c'è anche la casa. Esatto, il patrimonio immobiliare quanto conta? Assolutamente. E così è la domanda di un altro ascoltatore, Christian, ci chiede se sarà penalizzante per i proprietari di casa rispetto... Sì, sì, sì. Quindi sì, la casa peserà un po' di più. Diventa un po' più pesante per chi ha la casa, diventa un po' più difficile usufruire di queste prestazioni se si ha una casa di proprietà, poi ovviamente dipende dai valori, da tanti parametri. Certo, ma Conti, senta, secondo lei questa modalità è più, non lo so che tipo di aggettivo utilizzare, più coerente rispetto alla situazione economica generale, rispecchia un po' di più la situazione, come dire, di difficoltà economica di certe famiglie rispetto a quelli che stanno un po' meglio, invece prima forse non c'era una grande chiarezza da questo punto di vista? Ma guardi, probabilmente metto un po' d'ordine, nel senso che tutti i redditi, indipendentemente dal fatto che siano imponibili o non imponibili ai fini IRPEF, dunque slega la parte della dichiarazione dei redditi, devono essere indicati, per cui anche quei redditi cosiddetti esenti devono essere sommati. Però per la prima volta possiamo dedurre determinate spese, cioè le spese sanitarie, per esempio per i soggetti portatori di handicap, prima rimanevano in carico interamente alla famiglia, oggi sono deducibili. Per cui, che so, l'assistenza della badante è deducibile. Per cui ci sono per la prima volta delle componenti negative che prima erano caratterizzate invece solo dal solo canone di locazione, che era l'unica cosa che si poteva portare in diminuzione della quota. Poi il discorso diverso è che qui dovranno lavorare molto, a mio parere, gli enti locali, gli enti erogatori nel prossimo mese, perché la nuova ISE è uno strumento che pesa la ricchezza, ma lo pesa con un'unità di misura diversa. Per cui gli enti che erogano le prestazioni, il comune che determina la retta degli asili, sì, non potrà usare i valori soglia che usava con la vecchia ISE, perché se lo fa farà un errore grossolano. Noi misuriamo sempre la ricchezza, però la misuriamo con un'altra unità di misura. Prima la ricchezza era misurata in chili, adesso è misurata in libbre. Non possiamo usare lo stesso valore che usavamo. Quindi anche gli enti locali sostanzialmente devono adeguarsi a queste novità. Magari a gennaio ci torneremo. Noi siamo... stiamo andando verso la conclusione, peschiamo l'ultima domanda velocemente. Non per il naso, però. Lo peschiamo per il naso, Antonio. Per le orecchie. Buongiorno, Antonio. Buongiorno. Antonio. Buongiorno. Veloce, veloce, veloce. Sì, ho i miei suoceri che alla luce del piccolo reddito che hanno avevano un ISE che permetteva di avere certi benefici. Sì. Abbiamo deciso dal 1 gennaio di quest'anno, proprio perché sono poco abbienti, di tenerli in casa nostra. Sì. Quindi trasferiranno la loro residenza presso di noi, anche per dare un po' di assistenza, un po' più giustamente, degna. Antonio, certo. E allora volevo sapere se l'ISE terrà conto del reddito familiare anche mio, anche di mia moglie, sì, di mio figlio. Antonio, oppure... velocemente, purtroppo stiamo chiudendo. Francesca, sì, sì, assolutamente, il nucleo familiare, diciamo, diventa totale, unico. Esatto, diventa unico, quindi pesano i redditi di tutti, però ovviamente anche il numero di componenti. Esatto, quindi... per cui magari l'ISE sarà conveniente lo stesso per magari altre prestazioni sociali di cui hanno bisogno queste due persone. Grazie Francesca. Grazie a voi. Grazie molte, grazie anche a dottor Conti. Un bellissimo naso, Francesca. Facciamo le foto di tutti. Conti, sì, non possiamo fotografare il suo, ce lo mandi. Va bene. A presto. Buona grazie. Giornata. Grazie molte a Paolo Conti del CAF ACLI. Noi che facciamo? Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi ci occupiamo di lui, del nostro naso. A tra poco. Aggiungete pure il vostro chiamando e chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. Starnutite, ma attenzione, guardatevi le spalle. Gli esperti della Pennsylvania hanno realizzato una simulazione su come si diffondono i virus influenzali da uno starnuto. Lo studio è stato fatto su un aeroplano e i ricercatori, attraverso dei calcoli matematici, hanno analizzato la traiettoria dei virus e hanno visto che i virus sprigionati da uno starnuto si diffondono prima sopra la testa dei vicini di posto del passeggero che ha starnutito, poi all'indietro e infine sui lati. Deborah, salutiamo non con uno starnuto ma un bel sorriso. Con un benvenuto. Il nostro dottor Andrea Franzetti, primario di Otorino, laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno a benvenuto, tutti. Benvenuto, ben ritrovato. Lei quando in aereo oppure in metropolitana, insomma, perché anche lei starnutirà qualche volta, cosa fa? Cosa faccio? Cerco di mettere il fazzoletto davanti alla bocca e al naso. Il problema che spesso viene magari istintivo a mettere la mano, però il problema è che poi noi la mano la usiamo per stringere le mani, per toccare eccetera, quindi bisognerebbe lavarla molto spesso, mentre invece avere il fazzolettino di carta piuttosto che la salviettina diventa un presidio che soprattutto di questa stagione è importante, è un rispetto per sé e per gli altri. Invece non possiamo difenderci dagli starnuti altrui. E apriamo l'ombrello. Va bene. Allora, dottor Franzetti, parliamo del naso, piccolo, grandi, aquilini all'insù, stortignaccoli a patata, belli o brutti, in questa stagione si ammalano tutti, gocciolano, si tappano, starnutiscono, è anche un po' la stagione, dottor Franzetti. Per forza. Passiamo dalle allergie alle riniti stagionali. Allora, dato che Deborah ha parlato di ISEE, questo strumento utilizzato per misurare la capacità economica delle famiglie per l'accesso ai servizi pubblici, ho detto bene, Deborah? Hai detto tutto perfetto. Anche con lei, dottor Franzetti, a me e a Deborah piacerebbe fare un po' i conti. E dato che lei è Torino, noi misureremo l'efficacia del nostro naso, che è impegnato a riscaldare, umidificare, filtrare l'aria che inspiriamo. È una specie di climatizzatore molto evoluto. Ma il nostro naso, e lo abbiamo anticipato e di questo vogliamo anche parlare, deve anche fare altro, raccogliere gli odori e i profumi. Quindi lo metteremo un po' alla prova. Certo. Iniziamo con il naso chiuso. Troppo facile, no? Dare la colpa al raffreddore. Ci sono persone che hanno questo problema anche in tempi non sospetti, sì. Quindi non è solo la brutta stagione. C'è naso chiuso e naso chiuso, dottor Franzetti. Iniziamo a fare questo distinguo. Certo, c'è naso chiuso e naso chiuso. Soprattutto il naso, come tutta la biologia del nostro corpo, non ci permette di barare come invece ci può permettere l'ISEE. Hai nel visto? Senso che pungente rispetto è rimasto impressionato da molte riflessioni degli ascoltatori che vorrebbero aggirarlo, insomma. No, nel senso che è anche comprensibile in tanti casi, però noi rispetto alla salute non possiamo barare, perché dobbiamo fare i conti con un'oggettività. E quindi sicuramente il naso chiuso è un sintomo che indica una determinata situazione che può essere momentanea, può essere reversibile dopo alcuni giorni, può essere reversibile dopo magari anche periodi più lunghi, oppure può essere perenne. A seconda di come si sviluppa la chiusura del naso e della durata che ha, delle caratteristiche che ha, sicuramente ci manifesta una situazione fisiologica o patologica diversa del naso. Ma è vero che qualche volta il problema è avvertito solo da una narice, dottore? Anzi, sicuramente è avvertito spesso da una narice e in modo alternato, cioè quando si chiude una si apre l'altra, perché è un meccanismo di difesa che ha il naso, proprio un meccanismo di regolazione, per cui quando è regolato da delle formazioni che ci sono nel naso che si chiamano turbinati nasali, che quando si sgonfiano da una parte, cioè tendono a buttare, a ricevere meno sangue, dall'altra parte si gonfiano di più e viceversa. Questo proprio è già fisiologico di base. C'è un'alternanza. Quando diventa patologico invece diventa molto disturbante, ma si nota sempre da un lato più che un altro. Ma cambia se il problema si manifesta in un momento particolare della giornata, ad esempio al mattino oppure di notte, dopo uno sforzo fisico, passando da un ambiente all'altro, ci dà qualche indicazione in più, dottor Franzetti? Certo, ci dà delle indicazioni di più, perché per esempio se si manifesta la mattina sicuramente dobbiamo mettere in conto che la posizione supina l'ha condizionato in maniera importante, quindi può essere dovuto o a un problema di aumentato flusso di sangue verso la testa, quindi i turbinati che si gonfiano di più, oppure a un ristagno di secrezioni nasali che durante la notte non riusciamo ad espellere normalmente come durante il giorno. Se invece si manifesta durante per esempio un'attività sportiva, è una reattività di tutt'altro tipo. Se si manifesta durante invece una situazione o febbrile o post-febbrile o di altre sintomatologie di tipo virale, ci dà delle altre indicazioni su cosa sta succedendo nel nostro naso. Però ti posso essere anche due problemi contemporaneamente. Facciamo bingo così. Eh sì, perché si può avere il naso chiuso che gocciola anche. Di questo parleremo anche nel corso della nostra trasmissione. Invitiamo quindi i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi. Andremo subito da Angela, però il dottor Franzetti sai che viene e ci fa i quizzettoni. Guarda, è il nostro preferito da questo punto di vista. E poi il test di valutazione. Quindi dottor Franzetti è pronto? No, io vengo, ma lavoro almeno un mese prima per pensare. non è vero. Allora, dottore, noi siamo pronti. Sì, e magari apriremo anche la libreria di Cuore Denari. Molto volentieri, abbiamo tantissime cose fresche, aggiornate. Il quizzettone. Allora. Dai, quizzettone. Via. Guardi allora, che ha un minuto, eh. La domanda del quizzettone è questa. Che cos'è il biofilm? Biofilm. Do risposta numero uno. Sì. È un filmato scientifico sulla fisiologia nasale, che chiaramente spiega come si svolge la funzione nel naso. Risposta numero due. È una procedura clinica per esaminare il contenuto batterico del naso, che viene usata spesso in tutti gli ambulatori. Risposta numero tre. È una difesa biologica fluida che il naso ha per difendersi dalle varie situazioni patologiche. Ok, avete preso appunti, non andate su Wikipedia, non fate come al solito che indovinate subito, perché anche qua girate l'ostacolo come Elisée. Mi raccomando, perché il dottor Franzetti ha naso, vi sgama subito. Mentre, a proposito di naso, vogliamo capire quanto funziona bene, certo. Se è capace a fare il suo dovere, i suoi doveri, perché il naso ne fa davvero tanti di compiti. Certo, allora io direi che potremmo fare un test di autovalutazione che si sviluppa in questo modo. Risponde a tre domande che c'entrano col naso e anche con i seni paranasali in questa stagione, perché possono sviluppare delle sinusiti. Le risposte sono: quanto respiro, l'aria arriva ovunque e fa ventilare bene i seni paranasali. Sì. La prima prova è 20 secondi. Quanto respiro? Prendiamo uno specchietto e respiriamo col naso sullo specchietto. Vediamo se si forma un alone davanti al naso. Fatelo, intanto noi andiamo a sentire il nostro GR, poi continueremo a fare un'autovalutazione dell'efficienza del nostro naso col dottor Franzetti insieme a Deborah. Tra poco. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. I cambiamenti di temperatura. Scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione. Scusi, no? Non abbia pazienza. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento che sono toccate sulla bocca. Sono toccate sulla bocca. Ma c'è una goccia. Scusi. Ma qua ci sta un rischio da me. A me che prende qua. Vabbè, ma a me perché non occhio, scusi. Eccoci tornati insieme, torniamo ad occuparci della star della puntata di oggi, il naso, naso chiuso, naso gocciolante, naso che prude, naso che si secca, che sanguina, che non piace, naso che non sente. In studio con noi il dottor Franzetti, primario otorino all'ICP di Milano. Dottor Franzetti, eravamo ferme al test di autovalutazione. Sì. Abbiamo cercato di capire se il nostro naso respira bene, quindi uno specchio. detto di prendere uno specchietto, metterlo davanti alle narici, respirare normalmente e vediamo se si forma un alone simmetrico sullo specchio. Ci dice che la funzionalità di entrambe le narici è pressoché normale. Se invece da una parte c'è un alone e dall'altra parte no, vuol dire per esempio che una narice non respira adeguatamente. È sufficiente respirare normalmente, sì, non è che dobbiamo fare il toro. No, quello... normalmente. Assolutamente. Stavo provando. Poi invece l'altra cosa che dobbiamo andare a testare è se gira l'aria in tutto il naso, e questo lo vediamo in base all'olfatto. Sì. Perché la parte più alta del naso, il tetto del naso, mette in contatto l'aria con le cellule olfattorie. Sì. Per far questo avevamo già detto altre volte che è importante provare a respirare almeno gli odori che stimolano di più le cellule olfattorie, che per le cose che abbiamo di solito a portata di mano sono due o tre sostanze: il caffè, l'odore del caffè, l'odore della menta se abbiamo una foglia di menta, e se abbiamo a disposizione l'odore della cannella. Queste sono tre diciamo odori che stimolano in maniera abbastanza energica le nostre cellule olfattorie. Non dicono dell'olfatto fine, ma ci dicono comunque dell'olfatto e del contatto dell'aria con le cellule olfattorie. Infatti vogliamo anche chiedervi come percepite gli odori, se notate che il vostro naso magari fa fatica a riconoscere alcuni degli odori a cui siamo abituati. Entrando in casa nostra non ci accorgiamo ad esempio che sul fuoco c'è un soffrittino buono che ci fa venire subito l'acquolina in bocca, o se il caffè, il profumo del caffè lo avvertiamo proprio quando siamo lì vicino e non, sai, quella bella scia che al mattino dice ah, qualcuno si è svegliato, adoro, mi sta facendo adoro il caffè. Ecco, allora chiamateci 800 24 00 24 e per ultimo la pressione, vedere se i seni paranasali funzionano bene funzionando bene il naso, e questo si può fare attraverso una digitopressione, che vuol dire schiacciare con l'indice abbastanza energicamente, non troppo, o al massimo col pollice se non riusciamo con l'indice, in due punti. Uno si chiama fossa canina, che è lateralmente alle ali del naso, proprio sopra dove sentiamo i denti, sì, da una parte e dall'altra, e si nota se si stimola dolore o comunque fastidio e se è simmetrica l'impressione che abbiamo sui due lati. Sì. La secondo punto invece è sotto la, diciamo così, la palpebra la superiore, proprio lateralmente a quella che è la radice del naso, e in quella zona da tutte e due le parti dovremmo sentire una leggera pressione ma non dolore. Se in entrambi i punti, da un lato o da tutti e due i lati, notiamo o un senso di pressione importante o un dolore, vuol dire che c'è comunque un risentimento infiammatorio a livello dei seni paranasali. Se invece non notiamo dei fastidi particolari, vuol dire che non abbiamo problemi di sinusite. 800 24 00 24, spazia le vostre telefonate, il naso ci dà tante soddisfazioni, perché senza di lui, ciao, come si dice, perché certo, l'aria non arriverebbe giusta, la giusta temperatura è filtrata, ci permette anche di assaporare il mondo circostante, ma i nostri ascoltatori ci raccontano le disavventure del loro naso, lo fanno al nostro numero verde 800 24 00 24. Dove andiamo? Il naso è femmina, direi, perché abbiamo Angela e Maria. Direi che cominciamo con Maria Adele da Varese. Buongiorno. Benvenuta. No, buongiorno. Eccoci. Io telefono per mio marito che ha un problema. Ecco. Mio marito ha 79 anni ed è stato un grande fumatore. Da 2 anni ha un problema per cui spesso gli vengono delle crisi di forte raffreddore, il naso gli cola, si chiude, fa continuamente dei forti starnuti. E poi dopo qualche ora o una mezza giornata passa abbastanza spontaneamente. I medici interpellati non ci hanno dato grandi risposte. Io volevo sapere perlomeno cosa fare per aiutarlo in queste crisi. Una domanda, sì, una domanda velocissima, ma succede in alcuni periodi dell'anno o quando cambia ambienti particolari oppure no? Inizialmente anch'io avevo notato che succede magari il passaggio dal caldo al freddo, però è successo anche quest'estate, per esempio. Certo, Allora, diciamo che esiste una reattività nasale che può svilupparsi dopo i 70 anni e che viene come starato il cosiddetto sensore. È come se si innescasse un meccanismo che è pseudoallergico pur non essendoci un'allergia, e che questo può essere stimolato anche da fattori banali che possono essere ambientali o anche della persona, possono essere anche delle irritazioni, dello stress o cose anche a cui non diamo peso. Come fare ad aiutare il marito? Ma se sono cose che si risolvono in qualche minuto, direi che semplicemente dandogli il fazzoletto e basta. Mentre se il problema dovesse persistere, allora esistono dei lavaggi nasali fatti con acque particolari, che possono essere acque termali oppure iso o ipertoniche, associate a degli spray da usare però in maniera metodica, senza vasocostrittori. Sono spray a base o di antistaminici o di analoghi, che localmente non danno effetti collaterali, che possono dare minor sensibilità alla mucosa nasale e ridurre questi effetti. Angela dalla provincia di Forlì Cesena, benvenuta anche a lei. Buongiorno. Buongiorno. Che naso succede? Chiuso? Volevo chiedere... un po' il naso chiuso, naso freddo. Naso freddo. Io ho il naso freddo, partendo anche in questo momento in cui non è freddo, cioè la temperatura ancora non è scesa, per cui dovrei dire è freddo, io ho il naso freddo. Cioè, passando dall'estate, diciamo, quando si arriva da verso bisogna che Angela, come la Merkel, sì, impari a fare nasinasello. Perché quello aiuta a scaldare il naso. Poi naso freddo, cuore caldo. Dottor Fanzetti. Ma allora, il naso, la punta del naso freddo, diciamo così, immagino che sia questo il disturbo che viene riferito, non è una malattia. È una situazione fisiologica che può succedere. Perché succede? Succede perché la microcircolazione della punta nasale in un determinato momento ha meno flusso di sangue e quindi tende a raffreddarsi di più che tutte le altre parti della faccia. È un meccanismo di difesa che ha l'organismo quando si trova a dover reclutare sangue da altre parti, per cui magari uno può avere i polpastrelli più freddi, i piedi più freddi, la punta del naso più fredda. Io direi che è un disturbo, per cui diciamo che ci sono degli espedienti che si possono fare, ma non richiede una terapia, secondo me. 800 24 00 24 Deborah, vedo che sei... Sto monitorando Facebook. Dai. E c'è un ascoltatore che racconta che, anzi no, è un SMS che i ragazzi hanno trasferito su Facebook. Alberto, per me è cambiato l'odore di borotalco. Che succede che da un momento all'altro... Gli odori cambiano. Questo qui è una questione molto interessante, perché l'odore può modificarsi o perché succede qualcosa nel naso, ma molto più spesso perché succede qualcosa a livello dei bulbi olfattori o della corteccia cerebrale. Per cui noi gli odori li memorizziamo spesso e associamo gli odori a determinate situazioni del vissuto. Per cui può essere che o sono modificati perché c'è evidentemente un'alterazione del naso, ma nella maggior parte dei casi nel naso non succede nulla di particolare, ma è un'alterazione che avviene per motivi di tipo psicologico, delle somatizzazioni di situazioni particolari, e questo va indagato, insomma. No, stavo pensando che tutte le mattine mi capita, non appena metto il deodorante o il profumo e non esiste un prodotto con il quale non mi sia successo, faccio lo starnuto immediatamente. È anche questa una problematica legata all'aspetto che adesso lei ci spiegava? Ma il deodorante o il profumo di più sono una stimolazione per la cellula olfattoria, che praticamente passa da un niente tutto, nel senso che durante la notte non ha stimoli o ne ha molto pochi, o è come se uno prendesse una sberla sulla mano, no? Allora sicuramente reagisce, c'è chi può avere in maniera eccessiva questa reazione, che però in pochissimi minuti va a posto. In due secondi. Dottor Franzetti, nel test che lei ci ha sottoposto, suggerito, abbiamo fatto l'ultimo, riguardava la pressione di due zone specifiche del nostro volto, e l'indicazione ci permette di valutare una eventuale infiammazione. Vogliamo quindi parlare di sinusite, questa sì, è un po' la sua stagione. Tante volte anche dei mal di testa che non hanno nulla a che fare con la sinusite vengono giustificati come tali. Dottor Franzetti, sinusite è questo finale in ite ci dice, ci racconta già qualche cosa di quello che è capitato nel nostro naso. Ma le cause della sinusite sono diverse, non sono solamente i raffreddori trascurati. Si può, certo, fare prevenzione e ci sono delle novità per chi invece ha ricevuto diagnosi? Allora, diciamo che i seni paranasali, che sono delle cavità che sono intorno al naso, risentono indubbiamente del punto di sfogo di queste cavità, che è il naso. Quindi la prima prevenzione sulla sinusite va fatta sul naso. Dopodiché ci sono delle situazioni in cui invece siamo in uno stato di non perfetta salute dei seni paranasali e quindi basta un non nulla sul naso che ci causa la cosiddetta sinusite, che è uno stato infiammatorio. Diciamo la sinusite, quella generica, sì, quella che si associa al raffreddore, che di solito perché dà... ce ne sono di vari tipi. Davvero? Di sinusite, ah, come l'ISEE, adesso ci sono sei ISEE, sei ci tipi sono... più la dichiarazione sostitutiva, vediamo. Adesso anche vediamo di sinusite potremmo però noi parliamo di quella stagionale, perché è quella che ci interessa di più, che ha sempre un'associazione preceduta da una rinite, cioè, sì, da un fatto patologico nasale anche di brevi termini, di alcuni giorni, associata sempre a un peso a livello della zona frontale, cioè la zona in mezzo agli occhi. Tutti gli altri dolori che sono a livello delle tempie oppure a livello soltanto di quella che noi chiamiamo la zona dei seni mascellari, cioè il punto ai lati del naso in basso o sopra, sì, i denti, da sole non ci giustificano una sinusite, perché il dolore temporale spesso è associato a dei fenomeni muscolotensivi vasomotori. Quindi. E quindi è una cefalea, non è una sinusite, mentre il dolore ai lati del naso spesso può essere, diciamo, slatentizzato da una situazione dei denti. E quindi, se non è associato a una pesantezza a livello dei seni frontali, difficilmente esiste una sinusite solo mascellare che non sia legata a un problema odontogeno. Quindi noi dobbiamo fare attenzione se siamo un po' predisposti, certo, se durante la stagione, non possiamo dire inverno, né ancora inverno, ma insomma ci stiamo quasi, sì, avvicinando. Il nostro problema è la sinusite. Attenzione ai raffreddori, alla gestione del banale raffreddore, dottor Franzetti. Certo. Cosa dobbiamo fare? Ma allora, intanto quello che facciamo prima che ci venga il raffreddore, perché noi nessuno si preoccupa se gli viene un raffreddore, è come dire, è normale che mi viene un raffreddore. Allora, ci sono delle situazioni di soggetti particolarmente a rischio, no, che invece richiedono una prevenzione del cosiddetto raffreddore. Allora, esistono dei vaccini per bocca anticatarrali che ci proteggono dai principali eventi catarrali dell'inverno, che in alcuni casi devono essere presi prima, magari alla fine dell'estate. Esistono delle norme igieniche nasali, che abbiamo già citato prima, dai lavaggi, possibili lavaggi con acque termali piuttosto che altre sostanze, ce n'è una serie, si può fare una dilungazione su questo, che ci permettono però di mantenere la fisiologia del naso più appropriata, di modulare le secrezioni nasali, di modulare la situazione di infiammazione delle mucose, fino magari ad usare anche degli spray topici locali, ripeto, sempre senza vasocostrittori, perché sono quelli che danno la suefazione, che ci permettono di modulare la situazione fisiologica del naso. 800 24 00 24, restate con noi, voi e il vostro naso, che vi dia soddisfazione invece qualche problema. Dove andiamo? Andiamo, Deborah? Da Ettore da Brescia, perché si era prenotato da un pochino. Ettore, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda, io da 2 anni dopo, allora, vabbè, premetto, andiamo un po' nel personale però. Ma dai, sì, io, Ettore, ci faccia amiche. Posso anche dirlo con soddisfazione, diciamo che dopo ho fatto un ciclo di chemioterapia, sì, dovuta a una leucemia che ho superato, è un anno e mezzo che ho finito tutto. Bene, allora, Ettore, premetto questo perché, per lei. Grazie. Premetto questo perché la mia domanda era mirata, perché io appena finito il mio ciclo, quando appunto mi hanno dimesso, mi hanno detto vai, fai la tua vita, non pensarci più, insomma, sì, e mi faccio un fortissimo raffreddore, molto forte, era agosto, quindi vabbè, un raffreddore virale molto forte. Io da allora, dottore, ho l'olfatto completamente cambiato, ha recuperato un pochino, anche dei sapori, i sapori sono recuperati quasi tutti, mi viene da ridere perché l'unica cosa che non riesco più a bere è la Coca-Cola, perché ha un sapore troppo petrolio. L'avverte, proprio è cambiato il... Non la percepisce più. Gli odori, soprattutto quelli forti, li ho modificati, non riesco più a sentirli come prima. Grazie per averci chiamato. È una domanda molto interessante, nel senso che l'associazione tra gusto e olfatto è un'associazione che è assoluta, nel senso che chi ha un'alterazione dell'olfatto ha un'alterazione del gusto, sempre, questo sempre in qualche modo. E che cosa può essere successo? Allora vado un po' per ipotesi, perché chiaramente non ho visitato il signore, ma che cosa è successo? Lui ha fatto una chemioterapia, sicuramente altera totalmente tutto il sistema immunitario dell'organismo, perché deve farlo, assolutamente. È il suo ruolo. E quindi una patologia virale che potrebbe essere anche banale è stata più dannosa di quello che doveva. Siccome ci sono alcuni virus che vanno ad attaccare proprio i centri nervosi dei sensi, potrebbe essere che un virus ha dato un'alterazione a livello dei bulbi olfattori o dei gangli, alterandone in parte, mandando alcune cellule in sofferenza, in parte no. Siccome sappiamo che il tessuto nervoso è l'unico tessuto dell'organismo che una volta lesionato, cioè tranne cose futuribili con staminali o cose del genere, che, su cui si sta studiando, se va incontro a morte non è più rigenerato, nel senso che ossa, muscoli, pelle eccetera riesce a essere rigenerata, ma il tessuto nervoso completamente no. E quindi cosa è successo? Alcune cellule sono andate incontro a una sofferenza. Quelle che poi l'organismo è riuscito a far riprendere hanno ridato il senso. Alcune di queste che invece sono rimaste un po' offese hanno dato la cosiddetta cacosmia, cioè un'alterazione dell'olfatto in alcune situazioni. La Coca-Cola è una di queste. Allora, noi siamo in chiusura, abbiamo Mara da Napoli perché risponde al nostro quizzettone sul biofilm. Mara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Cos'è il biofilm? Non ho capito, mi scusi. Che cos'è il biofilm? Mi segnalano dalla regia che lei vuole rispondere. Secondo me è una protezione delle mucose, degli agenti esterni. Assolutamente giusto, bravo. Apriamo la libreria, che libro vuole Mara? Cuore o denari? Denari. Denari. Ha una preferenza, investimenti, casa, tasse, che cosa? Casa e tasse. Posso fare una domanda? No, purtroppo Mara no, scriveteci, perché noi abbiamo finito il tempo ufficiale. Ma adesso inizia quello ufficioso del pomeriggio. Grazie al dottor Franzetti. Grazie molte. Grazie a voi, un saluto a tutti. Buon raffreddore a tutti, allora speriamo di no, naturalmente. A domani. Cuore e denari.